Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi e benvenuti all'appuntamento di Radio 24 con le storie della cronaca, ma anche le curiosità, le eccellenze che ci parlano dell'Italia in controluce. Una volta tanto vogliamo parlare della Campania per una bella storia che viene dal mondo dell'industria. Il settore aerospaziale vola da quelle parti e non poteva naturalmente che essere così. Paolo Picone. In Campania sempre di più la ricerca è il suo punto di eccellenza nel settore aeronautico ed è qui che negli ultimi tempi ci sono state le novità più interessanti, merito da una parte di un grande costruttore di aerei leader mondiale come la Boeing, ma anche della preparazione ed utilità delle università campane, in particolare della Federico II di Napoli. La Boeing, ad esempio, ha deciso da 2 anni di installare presso l'IMAST di Portici, in provincia di Napoli, un proprio centro ricerche che, avendo finora dato ottimi risultati negli studi sui materiali compositi, ovvero i nuovi materiali adoperati negli aerei del futuro, come ad esempio il 787 Dreamliner realizzato nello stabilimento Alenia di Grottaglia in provincia di Taranto, verrà presto rafforzato. Ne è certo il direttore della comunicazione di Boeing Italia, Marcello Bruni. Come Boeing siamo fortemente orientati nel radicamento dell'azienda sul territorio nazionale, ma essendo la Campania e Portici un centro di eccellenza, le premesse ci sono tutte affinché ci si rafforzi, ci si ampli, si guardi al futuro in maniera molto positiva e propositiva. Perché in Campania esiste un centro di eccellenza sul quale abbiamo puntato fortemente per i forti contenuti tecnologici, innovativi, che danno la possibilità di poter passare abbastanza agevolmente dalla ricerca vera e propria all'applicazione, all'applicabilità di quello che viene trovato, che viene scoperto, immesso poi nei cicli produttivi. A Giugliano, sempre in provincia di Napoli, nello stabilimento della Selex Sistemi Integrati, azienda del gruppo Finmeccanica, specializzata nella produzione dei radar e apparecchiature di controllo aereo e non solo, è stata creata una struttura interna composta da 6 ricercatori dell'Università di Napoli, alcuni con il dottorato in corso, che costituisce l'Innovation Team, ovvero uno strumento che serve per promuovere il ruolo di ricerca, sviluppo e la sinergia tra azienda e mondo accademico. Perché proprio in Campania, ce lo spiega l'amministratore delegato di Selex Sistemi Integrati, Marina Grossi. Giugliano, perché a Giugliano abbiamo un gruppo di ingegneri con una forte preparazione tecnica, con forti legami anche con l'Università Federico II e le altre università che lavorano nella Campania, che stanno lavorando in maniera molto attiva e molto proficua. E quindi abbiamo pensato di metterlo nel nostro sito di Giugliano. L'Innovation Team è la soluzione a spingere a ricercare nuove soluzioni nel campo della ricerca e dello sviluppo. Si inserisce perfettamente in una direzione della gestione del capitale intangibile, che in aziende come le nostre ha un'importanza rilevante. Ma anche in realtà più piccole, sempre del settore aeronautico campano, c'è chi punta molto sulla ricerca e innovazione per 2 ragioni prima di tutto. La prima è l'ottimizzazione, quindi il contenimento dei costi. La seconda è la competitività in campo internazionale. È il caso della Magnaghi Aeronautica di Napoli, così come ci racconta il suo direttore operativo Giorgio Iannotti. La Magnaghi Aeronautica sostanzialmente investe circa il 15% del proprio fatturato in innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo. Questo al fine di mantenere un livello di competitività molto elevato in un mondo dove la tecnologia e l'innovazione sono elemento distintivo rispetto a tematiche produttive. Quindi da questo punto di vista negli ultimi anni abbiamo investito sia nella formazione delle risorse umane per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati e sia in ricerche dedicate a specifiche tematiche quali la sostituzione di processi tribologici piuttosto che l'applicazione di attuazione elettrica o altre tematiche che sono sia di interesse europeo mondiale ma anche di interesse aziendale per quelle che sono tecnologie che non avevamo sviluppato in precedenza. Italia in controluce. Impianti fotovoltaici, sì, ma in gruppo. Per superare infatti gli ostacoli burocratici che si trovano quando si scelgono le energie alternative, cosiddette alternative alle energie rinnovabili, insomma, ecco l'iniziativa che viene dalla Toscana, i gruppi di acquisto di pannelli fotovoltaici. Ce ne parla Ubaldo Cianciulli. Diamo gas all'energia del sole, aderisce al gruppo di acquisto solidale fotovoltaico, è lo slogan del progetto Chianti Solare che coinvolge i comuni di Barberino, Valdelsa, San Casciano, Valdipesa e Tavarnelle, Valdipesa per promuovere la costituzione di GASF. I gruppi di acquisto solidale sono già abbastanza diffusi nel settore agroalimentare, ma il Chianti Solare si occupa di energia pulita, cioè prodotta dal sole grazie agli impianti fotovoltaici. I raggi solari trasformati in corrente elettrica, e la novità è che questi tre comuni del Chianti cooperano per fare da intermediari tra gli abitanti del territorio e un gruppo di imprese selezionati insieme alla CNA e Confindustria in grado di installare chiavi in mano l'impianto domestico a prezzi più vantaggiosi. Sentiamo da Silvano Bandinelli, assessore all'ambiente di Barberino, la filosofia dei GASF. Siamo convinti che in questa ottica ai cittadini, avvicinando l'informazione attraverso una campagna pubblicitaria mirata che faremo in modo sistematico, potranno avere vantaggi di tipo economico e un vantaggio anche di tipo culturale, cioè avvicinarsi a un approccio di quella che è la filosofia dell'energia rinnovabile oggi presenti in Italia. Con la gara che andremo a fare ci hanno dei soggetti che potranno fornire di questo tipo di iniziative, soggetti fornitori appunto di questo tipo di tecnologie che individueremo nelle aree ovviamente dove sono presenti installatori con sede legale presso i tre comuni individuati nel progetto, cioè San Casciano, Barberino e Tavarnelle. Crediamo che questo tipo di politica sia una politica che renda al cittadino un vantaggio di tipo sia economico sia anche di tipo ambientale. Grazie al supporto tecnico di Ambiente Italia, il GASF è uno strumento sperimentale per favorire sia l'azione collettiva e coordinata di un gruppo locale di consumatori, sia la diffusione dell'utilizzo dell'energia solare, grazie a un accordo sociale tra un gruppo di soggetti cittadini interessati all'acquisto di un impianto fotovoltaico e uno o più aziende installatrici di impianti. Ma cosa devono fare i cittadini per partecipare al consorzio? Ce lo dice l'assessore all'ambiente di Tavarnelle, Davide Baroncelli. I cittadini possono rivolgersi per informazioni presso i comuni sia di San Casciano che di Tavarnelle o di Barberino e nello stesso tempo associarsi e costituirsi, presentare una propria istanza d'adesione a questi gruppi fotovoltaici per poter usufruire insieme delle possibilità preposte dai bandi e dalla situazione per l'acquisto di pannelli fotovoltaici a prezzi calmierati. Il vantaggio è quello di mettere insieme una quantità d'acquisto di pannelli per poter usufruire di sconti in rapporto alla qualità stessa del prodotto che va a essere acquistato, per cui sostanzialmente una diminuzione del prezzo del pannello fotovoltaico e anche una riduzione dei costi per quanto riguarda l'installazione. Un piccolo impianto a servizio di un'abitazione a uso domestico con una potenza nominale di 1,5 kW costerà tra i 5.500 e i 6.500 euro e grazie agli incentivi statali al conto energia sarà possibile usufruire di una tariffa agevolata per ben 20 anni. Quindi un risparmio per i cittadini, una promozione degli impianti fotovoltaici, un risparmio di energia elettrica e un abbattimento della produzione di monossido di carbonio. Questi i vantaggi dei GASF. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. È tutto anche per oggi, scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata, ci sentiamo oggi alle 13.30.